erano state due fotografie a scatenare tutto. La prima, scattata a Marion nell'Indiana, risaliva al 1930 e immortalava il linciaggio di Sheep e Abraham Smith. La cruda immagine mostra due corpi penzolanti da un albero, con una folla che guarda. Alcuni sorridono. La foto aveva ispirato una poesia di un insegnante ebreo, sindacalista attivo e iscritto al Partito Comunista, Abel Meeropol, intitolata Bitter Fruit, e pubblicata con lo pseudonimo di Lewis Allen nella rivista New York Teacher e nel quotidiano comunista New Messis. La poesia, con una musica di accompagnamento, veniva recitata dalla moglie nel circuito progressista del Greenwich Village di New York, diventando popolare nei circoli della sinistra statunitense. Nel 1938 la coppia presta la canzone alla cantante afroamericana Laura Duncan per interpretarla al Madison Square Garden in una raccolta fondi per le brigate internazionali della guerra civile spagnola. Fra il pubblico c'è Robert Gordon, un impiegato del Café Society, il tugurio del village dove si esibiva regolarmente Billie Holiday. Gordon parla della canzone al suo capo, Bernie Josephson, militante di sinistra e convinto antisegregazionista. È lui che convince Lady Day a registrare la canzone e a cantare nel suo locale. Per quella prima aveva creato l'ambiente perfetto. Il servizio era stato interrotto e il Café Society era completamente al buio, ad eccezione di un solo riflettore che illuminava il viso di Lady Day con la sua immancabile gardenia nei capelli. Dopo un inizio strumentale, Billie attacca con quelle parole che gelano il sangue. Quando la canzone finisce, si spegne l'unica luce. Le 200 persone presenti sono al buio, ammutolite, scioccate. La luce torna, ma il palco è vuoto. Billie è in bagno a vomitare, stremata dall'intensità emotiva che ha messo dentro quella canzone. Il pubblico è pietrificato. Sono stati trasportati sotto quell'albero a guardare penzolare quei strani frutti, con gli occhi sporgenti e la bocca contorta, e a sentire quel puzzo di carne bruciata, beccata dai corvi, che vien su nelle narici. In un silenzio imbarazzante, una donna si alza ad applaudire nervosamente, seguita poco a poco da tutti i presenti in una grande ovazione finale. Strange Fruit diventa il brano di Lady Day, quello che chiude gli show, quello che ogni volta la farà soffrire e quello che le porterà parecchi guai. Quella canzone era scomoda, non perché fosse un atto di accusa rivolto verso qualcuno, ma perché dipingeva il nauseabondo panorama del sud degli Stati Uniti, dove i linciaggi erano visti come allegre feste di paese. Spettacoli pubblici dal forte richiamo, con tanto di autobus per andarvi ad assistere e vendite di fotografie che immortalavano l'infamia. Molti attivisti inviarono il 78 giri della canzone ai deputati del Congresso per stimolarli a fare leggi antilinciaggio. Il risultato ovviamente nullo. Il rischio di perdere anche solo uno dei voti di quei bifolchi razzisti era troppo alto. Il Time la considera propaganda politica, salvo poi ritrattare nel 1999 premiandola come canzone del secolo. Silenziare Lady Day diventa la priorità numero uno dell'FBI. Hoover tenta in ogni modo di non fargliela cantare, ma lei è cocciuta. Incastrare Billie Holiday però è molto facile. Fa uso di eroina e fargliela trovare addosso è un gioco da ragazzi. Viene braccata da Harry Eslinger, il capo del dipartimento antidroga, che con mezzi che passano abbondantemente la legalità riesce ad arrestarla. Finisce in carcere e le viene ritirato il permesso per cantare nei locali di New York. La sua vita, già di per sé tragica, diventa un inferno. La madre l'aveva avvisata: quella canzone ti ucciderà, ma lei è ostinata e continua a cantarla fuori dallo stato di New York. Di ragioni ne ha tante. Suo padre era morto nel 37 perché l'ospedale si era rifiutato di curarlo. Una volta in Alabama era sfuggita per un pelo a un linciaggio dopo un concerto, o quando cantava nei gruppi bianchi di Benny Goodman e Artie Shaw, doveva entrare dalla porta posteriore dell'hotel e usare l'ascensore di servizio. Che le cose per i neri non sarebbero andate bene, c'era da aspettarselo fin da subito. Dal giorno dell'indipendenza, il 4 luglio 1776, quando Thomas Jefferson proclamava che tutti gli uomini sono creati uguali. Forse alcuni più uguali di altri, visti che possedeva 175 schiavi, arrivando ad averne più di 600 nella sua tenuta in Virginia. Inoltre, sosteneva che gli africani puzzavano a causa del sistema endocrino poco sviluppato o che la loro migliore resistenza alle alte temperature era dovuta a una diversità dell'apparato respiratorio. Un illuminato. Per giustificare la schiavitù, la classe dirigente americana chiede aiuto alla comunità scientifica ed ecclesiastica per fornire qualsiasi prova dell'inferiorità della razza africana. Dall'inizio dell'Ottocento vengono pubblicati vari studi che seguono questa direzione. Il primo, del 1838, è un trattato molto influente intitolato Crania Americana, scritto da Samuel George Morton. L'autore riusciva a dimostrare attraverso lo studio di 78 crani di diverse etnie l'inferiorità dei nativi americani a causa del loro cranio più piccolo e per questo incapaci di vivere nella società moderna. La bizzarra conclusione era perfetta per giustificare l'inizio della deportazione di massa dei pelle rossa in quelle che gentilmente verranno chiamate riserve, le zone più depresse degli interi Stati Uniti. Non era tutto. Quello degli africani era ancora meno sviluppato. Era una razza selvaggia e violenta da tenere assolutamente addomesticata. Charles Darwin era un fan di Morton, una passione che purtroppo sfocerà nella nefasta teoria del darwinismo sociale. Di lì in poi fioccheranno numerose pubblicazioni di pseudoscienza, tutte volte a dimostrare l'inferiorità della razza africana. A rincarare la dose ci pensa la Chiesa. Dai pulpiti tuonavano le parole della lettera di Paolo agli Efesini. Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo. C'era poi la questione della Destino Manifesti, secondo la quale era stato Dio in persona a portarli lì per salvare la loro anima, cosa che non avrebbero potuto fare nella loro terra natia, praticando quegli strambi culti pagani. Inoltre, sempre Dio in persona, aveva incaricato i bianchi americani di dominare e usare qualsiasi mezzo per lo sviluppo di quel grande esperimento di libertà che era l'America. Oh boy. L'America però si spacca in due. Il Nord di Lincoln vuole l'abolizione della schiavitù. La Confederazione degli 11 Stati ribelli del Sud rispondono che manco per sogno. Scoppia una sanguinosa guerra civile, decisa dalla geniale idea di Lincoln di arruolare gli schiavi in cambio della libertà. L'importante ruolo delle truppe di Black Soldiers si rivela la mossa decisiva per la vittoria finale. Fedele agli impegni presi, nel gennaio del 1865 il governo emana il 13° emendamento che sancisce la fine della schiavitù. La legge, però, si presta a trovarne l'inganno facilmente. La schiavitù, recitava, è abolita, tranne come punizione per aver commesso un crimine. Vista la vaghezza, al Sud sguazzarono. Ci furono arresti di massa, spesso con imputazioni ridicole come bighellonaggio o vagabondaggio. Le punizioni corporali erano un fatto quotidiano, così come era molto frequente la disdicevole pratica del linciaggio. Nella quasi totalità dei casi, i sospettati erano innocenti, condannati a essere torturati, mutilati e castrati, poi appesi ad un albero ancora vivi e dati alle fiamme. Spesso le parti del corpo venivano esposte e qualche romantico si portava via qualcosa come souvenir da esporre in casa. Dalla fine dell'Ottocento al 1959 erano stati uccisi in questo orrendo modo quasi 5.000 afroamericani, più di una settimana. Subito dopo la pubblicazione dell'emendamento, gli antichi stati confederati iniziano a legiferare dei codici di segregazione razziale, le leggi Jim Crow, dal nome di un personaggio caricaturesco inventato dal comico Thomas Rice che faceva furore ai tempi. Queste leggi, con severe restrizioni per i luoghi pubblici, seguivano il comico motto «separati ma uguali». Per affrontare queste ingiustizie, nel 1909 nasce la battagliera Associazione per i diritti civili, NAACP, che avrà un ruolo fondamentale nella conquista dell'uguaglianza. A complicare le cose, nel 1915 viene rifondata un'associazione che difendeva i veri valori americani di patria, famiglia e libertà, il Ku Klux Klan, un'organizzazione terroristica di suprematisti bianchi responsabile del regno del terrore nel sud. Il Klan utilizza l'estetica del film La nascita di una nazione, un'opera falsa, faziosa e razzista, dove i neri interpretati da attori blackface vengono rappresentati come sporchi, selvaggi, brutti e cattivi. La scena culmine è quando la protagonista femminile viene inseguita nel bosco da Gus, lo schiavo liberato che vuole violentarla. Flora decide di suicidarsi gettandosi da un burrone piuttosto che cadere nelle mani di quel bruto. La vendetta è organizzata da un gruppo di valorosi cavalieri incappucciati, armati di spada, che bruciano enormi croci nelle notti del sud. Il film li dipinge come eroi crociati che salvano il sud. L'impatto è devastante. Prima della proiezione del film, nelle varie città, ci sono parate di incappucciati a cavallo che sparano per le vie. Il presidente Wilson organizza proiezioni private alla Casa Bianca, definendolo illuminante. Le iscrizioni impennano fino a raggiungere i 6 milioni di adepti. I membri del clan erano spietati nel loro terrore. Picchiare, incendiare, bombardare case e chiese, uccidere e linciare. Qualsiasi metodo era valido per eliminare chiunque minacciasse la loro visione della società. Non c'era confine alla loro violenza. È in questo clima, nel settembre del 55, che viene pubblicata la foto di Emmett Till. Emmett Till era un 14enne di Chicago. Quell'estate sarebbe andato dagli Ziju al sud, a Money, nella contea Tallahatchie, stato del Mississippi. La madre Mammy si era raccomandata. Il sud non era Chicago, era pieno di pericoli per un nero. Prima del viaggio, regala a Emmett un anello appartenuto al padre. Giustiziato ingiustamente in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, con false accuse di stupro e omicidio di tre donne italiane. Il 24 agosto 1955, Emmett entra con un cugino nel negozio gestito dalla giovane coppia bianca, Roy e Carolyn Bryant. Esce nervoso con delle gomme da masticare. Non si sa cosa sia successo dentro. La verità si conoscerà solo 60 anni dopo, quando la 82enne Carolyn Bryant ammetterà che il ragazzo non fece assolutamente nulla. Dopo 4 giorni, il marito Roy torna da un viaggio in Texas e Carolyn gli racconta tutto. Gli dice che quel ragazzino le aveva preso le mani, poi le aveva stretto la vita dicendole porcherie irripetibili. Roy, assieme al fratellastro, piomba nel cuore della notte a casa dello zio del ragazzo. Pistola alla mano, minaccia Moses Brown. Vuole Emmett. Gli zii pregano gli uomini. È solo un ragazzo. Una buona strigliata gli avrebbe insegnato a essere più rispettoso. Arrivano a offrire anche dei soldi, ma gli uomini sono irremovibili e lo portano via in un pick-up. Il giorno dopo, Moses Brown denuncia il rapimento del nipote allo sceriffo. Il tutore della legge interroga i due fratelli, che confermano di averlo preso, ma di averlo liberato poco dopo. Sono entrambi arrestati per rapimento. Il 31 agosto, dei ragazzi pescando nel fiume Tallahatchie vedono qualcosa di strano. Quello che viene fuori è un corpo decomposto e mutilato. Il cadavere è irriconoscibile. Sono le iniziali dell'anello a confermare che è Emmett Till. Il giudice restituisce il corpo a Moses Brown con ordine di sepoltura immediata. Lui non ubbidisce e informa la madre. Mamie Till, assistita dagli avvocati della NAACP, riesce a ottenere la bara del figlio perché venga seppellito a Chicago. L'ordine è tassativo, proibito aprire la cassa. Mamie ovviamente la apre e alla vista di quell'orrore decide di celebrare il funerale a bara aperta. Tutti dovevano vedere di cosa era capace la furia brutale di quei suprematisti bianchi. Al funerale partecipano 50.000 persone. In molti, vedendo quel piccolo corpo gonfio, torturato, con gli occhi fuori dalle orbite e la testa quasi staccata, si sentono male. Alcuni svengono. La foto scattata viene pubblicata solo sui giornali neri. Quelli bianchi progressisti la giudicano troppo scioccante. Quell'immagine ispirerà poesie, libri, opere teatrali, film e canzoni e segnerà uno spartiacque. In molti si fecero attivisti dopo aver visto quella foto. Muhammad Ali l'ha definita una delle esperienze più sconvolgenti della sua vita. A Money inizia il processo farsa ai fratelli. Una giuria completamente bianca li giudica innocenti. Fuori dal tribunale è una festa. Grazie a un'efficace operazione di boicottaggio, il Bryant Grocery è costretto a chiudere. Nel gennaio del 56, sapendo che un imputato non può essere processato due volte per lo stesso reato, i due fratelli concedono un'intervista a un giornale per la somma di $3.000. Con tono sprezzante e spavaldo, confessano di aver torturato, mutilato e sparato a Emmett Till. Per far sparire il corpo nel fiume, l'avevano legato con del filo spinato alla grossa ventola di una macchina per la lavorazione del cotone. Il motivo era semplice: preservare la purezza della femminilità bianca. Oh, 100 giorni dopo l'omicidio, Rosa Parks si nega a cedere il posto sull'autobus a un bianco. Normalmente l'avrebbe fatto, ma si ricorda della foto di Emmett. Era stanca dei continui abusi. Quel giorno di dicembre 1955 nasce di fatto il movimento dei diritti civili, che cambierà profondamente oltre la società anche la musica afroamericana. Stranger lying on a barroom floor, had drank so much he could drink no more. And so he fell asleep with a troubled brain, to dream that he rode on a downbound train. Il capodanno del 52 è una data fondamentale per la carriera di Chuck Berry, perché entra a suonare nel trio di Johnny Johnson. Berry, al contrario di Johnson, era molto ambizioso. Il pianista era un paccioccone grassottello con una famiglia da mantenere, contento assai di guadagnarsi da vivere con la musica. Nello spazio di un anno, Chuck diventa il leader del gruppo, anche perché era l'unico che possedeva l'auto, mezzo fondamentale per trasportare la band ai concerti. Berry era interessato a suonare più stili e fondere in un unico suono Louis Jordan, Muddy Waters, Charlie Christian e Nat King Cole, caramellati con del country. Grazie a infuocati concerti si era sparsa la voce a St. Louis che c'era un nero che faceva musica illibilli. La notizia faceva correre sempre più pubblico bianco ai suoi spettacoli. Da lì era arrivata Maybelline, che aveva conquistato la tripla corona. Numero uno rhythm and blues, più ascoltata nei jukebox e più programmata nelle radio, ma Berry non aveva visto molti soldi. Leonard Chess l'aveva convinto a cedere 2/3 dei diritti della canzone a 2 persone che non c'entravano niente. Una parte andava a Russ Fratto, padrone di casa degli uffici della Chess e della società che stampava le etichette dei dischi. E l'altra parte a Alan Freed, per stimolarlo a suonare la canzone. Questo episodio, assieme al furto degli incassi dei concerti da parte del suo road manager, porteranno Chuck Berry ad avere un'ossessione per il denaro, facendolo diventare una persona tirchia, sospettosa e addirittura spiacevole quando c'erano di mezzo dei bigliettoni verdi. Proprio a un tema relazionato con il denaro è il titolo del suo terzo single, No Money Down, senza anticipo, dove in bella mostra la sua consueta maestria nello scrivere delle storie che catturano perfettamente lo spirito del suo tempo. In questo caso, quello dello spirito americano, che fa del consumismo e della ricerca dei beni materiali i simboli del vero successo. A stranger lying on a barroom floor, had drank so much he could drink no more. Chuck aveva sempre avuto una passione per le macchine. La prima, una vecchia Ford V8 del 34, l'aveva pagata con $10 d'anticipo e 5 al mese per le rate, ma era troppo giovane per concludere ufficialmente l'affare. Così era intervenuta la sorella maggiore Thelma per firmare il contratto. L'ispirazione per la scrittura del brano gli viene dal cartello di un rivenditore di automobili che recitava No Money Down, senza anticipo. Vista l'offerta, cambia la sua scassata Ford per un lussuoso modello di Cadillac con ogni optional, TV e letto compresi. Tanto è tutto No Money Down. As I was motivating back in town, I saw a Cadillac sign say No Money Down. So I eased on my brakes and I pulled in the drive, gunned my motor twice. Then I walked inside. Dealer came to me, said, trade in your Ford and I'll put you in a car and eat up the road. Just tell me what you want and then sign that line and Now I have it brought down to you in an hour's time. I'm gonna get me a car and I'll be headed on down the road. Then I won't have to worry about that broken down ragged boy. Well, mister, I want a yellow convertible, Ford DeVille, with a Continental spare and a wide chrome wheel. I want power steering and power brakes. I want a powerful motor with a jet off take. I want air conditioning. I want automatic heat. I want a full Murphy bed in my back seat. I want shortwave radio. I want TV and a phone. You know I gotta talk to my baby when I'm riding alone. Yes, I'm gonna get that car and I'm gonna head on down the road. Yeah, then I won't have to worry about that broken down ragged Ford. I want four carburetors and two straight exhausts. I'm burning aviation fuel, no matter what they cost. I want railroad air horns and a military spot. And I want a 5-year guarantee on everything I got. I want $10 deductible. I want $20 notes. I want $30,000 liability. That's all she wrote. Let me take you to the movies, Mag, so I can hold your hand. Oh, it ain't that I don't like your house, it's just that doggone man. And that double barrel behind the door, it waits for Carl, I know. Oh, climb up on old Becky's back and let's ride to the picture show. La famiglia Perkins è una delle tante che durante i duri anni della Grande Depressione è costretta a inventarsi il modo per sopravvivere. I genitori, con i tre figli, raccolgono cotone nella contea di Lake, nel Tennessee. Sono gli unici bianchi della piantagione. Il lavoro è massacrante. 14 ore al giorno per 50 centesimi. Una miseria. C'è chi però ci vede il lato positivo. Carr, il fratello di mezzo, rimane estasiato ogni volta che il lavoratore più anziano, John Westbrook, detto Uncle, lancia i canti che accompagnano la giornata. Il bambino mostra un'autentica passione per la musica. Quando ha 7 anni, il padre, viste le possibilità, gli fabbrica una chitarra con una scatola di sigari, un manico di scopa e del fil di ferro, finché un giorno non gliene compra una vera da un vicino. Una vecchia Jane Autry con le corde consumate. Valore di mercato, $2 e un pollo. Il vecchio Uncle Westbrook è il suo primo maestro. La dieta è stretta a gospel e blues, però Carl scopre alla radio il country e si innamora di Bill Monroe. A 13 anni vince un concorso di talenti con una canzone scritta da lui, questa Movie Mag, che registrerà 10 anni più tardi. Quando è quindicenne, forma un gruppo con i fratelli. Jay, di 2 anni più grande, ha la chitarra ritmica e Clayton, più piccolo di 2, al contrabbasso. Si esibiscono come Perkins Brothers Band nel circuito Honky Tonk per le mance dei clienti, finché trovano ingaggio fisso per una volta a settimana in un localaccio della Highway 45, la taverna Cotton Bowl, dove trovare il pretesto per una rissa era facile come ordinare una birra. Nell'estate del 54, Carr ha un'epifania. Sente alla radio la versione di Elvis di Blue Moon of Kentucky, del suo idolo Bill Monroe. Quella era esattamente la stessa musica che stava facendo con i suoi fratelli. Incuriositi, i tre vanno a vedere Elvis dal vivo. Carr rimane estremamente impressionato e decide di andare alla Sun per far sentire la sua musica. Al ricevere al 706 di Union Avenue c'è Marion Kasker, che si mostra negativa a una richiesta di audizione. I tre, scoraggiati, si avviano verso la macchina quando vedono arrivare una lussuosa Cadillac. Sanno che può essere Sam Phillips, così lo accerchiano e dopo moltissime insistenze lo convincono per delle prove. La prima registrazione è Movie Mag del febbraio del 55, un brano che aveva scritto quando era adolescente. Durante un tour con Elvis e Johnny Cash, quest'ultimo gli racconta un aneddoto del sergente White, un suo commilitone afroamericano. Quando si vestiva per andare in permesso e indossava le scarpe nere e lucide in dotazione, diceva sempre: «Non calpestare le mie scarpe di camoscio blu!». Qualche tempo dopo, durante un concerto in una sala da ballo, l'attenzione di Carl viene attirata da un ragazzo che rimprovera la sua compagna con la frase: «Non calpestare le mie scarpe!». La cosa che lo colpisce è che il ragazzo sia più preoccupato di ciò che ha nei piedi che alla bella ragazza che ha accanto. La stessa sera si sveglia nel cuore della notte e scrive, secondo la leggenda sulla carta che conteneva delle patate, le parole di Blue Suede Shoes, una delle canzoni più emblematiche di quello che verrà chiamato rockabilly. Come lato B viene scelta questa Honey Don't, che negli anni diventerà un classico ripreso anche dai Beatles nel loro For Sale. Sarà però il lato A a consegnare Carl Perkins alla storia. Primo artista country a entrare ai vertici della classifica Rhythm and Blues. Primo disco della Sun a superare il milione di copie. Primo brano rockabilly scritto e interpretato dal suo autore. E doppio numero uno nella classifica country e pop. Well, it's one for the money, two for the show. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue. Knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. My house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of them shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Rock! For the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue suede shoe, blue, blue, blue suede shoe, yeah, blue, blue, blue suede shoe, baby, blue. Tapiti, tau, blues e rock and roll, mai ascoltare un cioccolato bianco, storie e canzoni, puntati più davvero, catarri cri e non ci pensi più. I was the one who taught her Elvis. L'estate di Elvis ha un ritmo frenetico, con concerti quasi quotidiani e un seguito sempre maggiore. Nell'autunno del 55 c'è la svolta. Il 20 ottobre i genitori firmano un telegramma che cede la rappresentanza esclusiva di Elvis al colonnello Parker. Il 1 novembre Sam Phillips, viste le enormi difficoltà nelle quali versava la Sun Records, decide di vendere il contratto del suo gioiello per una cifra folle. $35,000 che risistemano i conti della discografica e danno la possibilità a Sam Phillips di continuare il suo ruolo di inventore del rockabilly con talenti come Carl Perkins, Roy Orbison e Jerry Lee Lewis. As perfect as could be. Il 20 novembre Elvis firma il contratto portandosi a casa anche 5.000 bei dollaroni. La lettera di ringraziamento inviata al colonnello è un'onesta leccata al di dietro che si conclude con la frase «Le voglio bene come un padre». Il 1 dicembre va a New York con Parker agli studi della RCA sulla 24esima strada, dove conosce i dirigenti e fa un po' di foto che compariranno sul retro del suo primo LP. Il 10 gennaio, due giorni dopo il suo compleanno, è nella patria del country a Nashville per fare le prime session con la nuova compagnia discografica. In studio, oltre ai fidati Scotty Moore e Bill Black, ci sono il batterista DJ Fontana, il pianista Floyd Kramer e il re del fingerpicking Chet Atkins. A Elvis vengono presentate 10 demo, dalle quali ne viene fuori il retro del single, con questa I Was The One. Come lato A, Elvis si gioca l'asso che ha nella manica. Quel brano l'aveva suonato dal vivo il 9 dicembre al B&I Club di Swifton, nell'Arkansas, presentandola al pubblico come il suo nuovo numero uno. La canzone l'aveva iniziata a scrivere il chitarrista Tommy Darden per interpretarla con il suo gruppo, ma era incompleta. Decisivo è l'incontro con May Boren Exton, una promoter di spettacoli in Florida che aveva già lavorato con il colonnello. Per completare il pezzo, si era servita di un articolo del Miami Herald, la storia di un uomo abbandonato dalla propria compagna che si era gettato dalla finestra di un hotel. Prima di suicidarsi, aveva distrutto tutti i suoi documenti e aveva lasciato una nota. Cammino in una strada solitaria. L'articolo aveva colpito la Exton, soprattutto per quel misterioso scritto lasciato dal suicida. Come per magia, la compositrice arriva alla conclusione che quello che puoi trovare alla fine di una strada solitaria non può che essere un hotel per cuori spezzati. In verità, la notizia era una bufala della stampa. Le cose non erano andate esattamente così. Il giornalista, per creare un articolo ad effetto, aveva messo tanta creatività nella storia di Alvin Krolik. Krolik era un 25enne di Chicago, ex istruttore di judo nella Marina e, secondo lui, artista di gran talento. That's exactly what I do. Si era sposato nel 1953 con la bella animatrice di club notturni, Agnes Simpson, ma il matrimonio era durato poco, solo un mese. Krolik era profondamente innamorato e ne esce male. Perde la testa e cade in una spirale di alcol, prostitute e crimine. Prima di compiere i suoi assalti a mano armata, si dipinge il viso con colori ad olio, rendendo impossibile identificarlo. Nel novembre del 53, però, si costituisce alla polizia. Sembra pentito e inizia a scrivere la sua autobiografia, dove avvisa il lettore che il libro parla di un uomo che cammina in una strada solitaria. Quasi 2 anni dopo, Krolik torna alle sue rapine artistiche finché non entra nel locale sbagliato, un negozio di liquori al Paso in Texas. il padrone vantava il piccolo record di aver ucciso 9 rapinatori e averne feriti altrettanti, e non esita a far fuori anche il decimo. È così che muore il protagonista della canzone, crivellato di colpi fuori da uno squallido negozio di liquori. L'estroso giornalista mischia un po' le carte e decide di abbellire la storia ficcandoci dentro una bella dose di romanticismo, facendo finire il protagonista suicida dalla finestra di un hotel. Oh, since my baby left, I found a new place to dwell. Down at the end of Lonely Street, Heartbreak Hotel. Durante un tour di Elvis in Florida, la Exton gli presenta la demo della canzone interpretata da Glenn Reeves, che cerca il più possibile di imitare Elvis. Well, hello, it's always crowded. You still can find some room. È amore a prima vista. La vuole ascoltare più di 10 volte per memorizzarla bene, farla sua ed esibirla in concerto. La Exton, sicura del successo, cede a Elvis un terzo dei diritti di quella canzone intitolata Heartbreak Hotel. Well, the bellhop's tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. They've been so long on Lonely Street, they'll never, never come back. A risultato finito, però, i dubbi sono tanti. Alcuni chiedono di rifarla. Il produttore Steve Sholes, nonostante sia preoccupato, si fida di Elvis anche per quell'overdose di eco che lo faceva somigliare ai lavori della Sun. La storia darà ragione a Elvis. La canzone si vende più del whisky a Natale, 300.000 copie in un sorso la prima settimana, singolo più venduto dell'anno, superando il 1,5 milioni di copie, numero uno pop e country e quinto posto nella classifica rhythm and blues. Il suo impatto è colossale. Paul McCartney l'ha definita la creazione artistica più importante dell'era moderna. Il brano dà al messia di Tupelo fama a livello nazionale e fa esplodere ufficialmente la Elvis mania. Questa è la tragica Heartbreak Hotel. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel. So lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be so lonely, I could die. Oh, though it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so, I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely, I could die. Keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, they'll never look back. And think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down the lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be. You're so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. Del suo soprannome, lui stesso confessa ignorarne l'origine. Ci sono molte teorie o personaggi che se ne attribuiscono la paternità, ma nessuna certezza. Billy Boy Arnold, il suo armonicista, dice averglielo affibbiato lui, da un'espressione gergale usata da un comico di strada di Chicago che significa niente di niente. Alcuni sostengono derivi dalla sua tappa pugilistica con il significato di bullo, sbruffoncello. Altri sono convinti venga dallo slang per dire non importa, non fa niente. I più eruditi citano il Diddley Bow, l'arco di Diddley, un rudimentale strumento a corda di origine africana, predecessore della slide. Qualunque sia il motivo per cui Ellis McDaniel si sia trasformato in Bo Diddley, non importa. Ciò che conta è la sua influenza basilare per la transizione del rhythm and blues al rock. La sua esaltazione del ritmo con richiami ancestrali africani e la sua grande contribuzione al mondo della musica. Non per niente, il suo altro soprannome è The Originator. Nel mese di febbraio esce il suo quarto singolo, proveniente dalle session di novembre. Un brano coverizzato da molti artisti come i Sonics, i Remains e dal Capitan Cuor di Bue e la sua banda magica. Diddy Wo Diddy è frutto della fatata pena di Willie Dixon, che partecipa alle session in veste di bassista. Il testo della canzone fa menzione alla mitica città di Diddy Wo Diddy, uno dei tanti luoghi idealizzati dagli afroamericani. Come per Jeannie Gale, Beluta Aci e West Hell, si tratta di posti immaginari, di paesi dei balocchi, dove il cibo è in abbondanza e si può vivere in pace senza lavorare. E allora, via tutti a Dede Wa Dede! Can't be my lovin', baby, you ain't got the style. I'm gonna get some real gone love that'll drive a cool cat wild. Gonna move, roll it right on down. Gonna get me a gal that'll go out on the town. Alla Sun Records c'era andato su consiglio di Johnny Cash. Sam Phillips inizialmente aveva storto la bocca guardando quell'individuo di strana fisionomia con quegli spessi occhialoni neri. Era la più improbabile delle rockstar, un tipo bruttarello per usare un eufemismo. Però, quando sente quella portentosa voce, decide di dargli un'opportunità. Il ragazzo gli fa sentire delle ballate, ma Sam lo stoppa, dicendogli che quella era la Sun, doveva montare sul carro del nuovo rockabilly. Aggiunge che anche Elvis voleva cantare come un crooner o Mario Lanza, e invece ora era in una delle discografiche più importanti del paese. Sam stava commettendo un grosso errore, ma se ne accorgerà molti anni più tardi. Quel ragazzo dalle strane fazioni e aspetto malaticcio era Roy Kelton Orbison, un texano sfortunato fin da piccolo. Soffriva di ogni patologia oculare, strabismo, presbiopia, astigmatismo e ipermetropia. Insomma, non vedeva una mazza ed era costretto a portare due grossi occhialoni dalla spessa montatura. Quando è adolescente, gli diventano pure i capelli bianchi. Il rimedio è una tinta dal nero irreale. Burla, assieme al resto, dei cattivi compagni di scuola. Questi elementi forgiano il carattere di Roy, un ragazzo timido, introverso, romantico e sognatore. La musica è il suo grande rifugio, adora il country e fa un pensierino alla vita di cantante quando dopo un concerto di Lefty Frizzell lo vede salire su una Cadillac. Con la musica in fondo si poteva tirar su un buon gruzzoletto. Forma il suo primo gruppo con degli amici di scuola, i Wink Westerns, che presto cambieranno il nome nel più moderno Teen Kings. Il gruppo, oltre a suonare in feste locali da ballo, incide un single per una minuscola etichetta che non vende quasi niente. È proprio quello il brano che Orbison incide con la Sun. Ubi dubi! Il rockabilly, secondo Roy Orbison. Hey baby, jump over here when you do the ooby dooby. I just gotta be near ooby dooby. Bop-a-loom-a, bop bop bop. Tutti Frutti, all Rudy. Tutti Frutti, all Rudy. Tutti Frutti, all Rudy. Tutti Frutti, all Rudy. Tutti Frutti, all Rudy. Questa non è la moviola di Tutti Frutti, ma bensì la versione del più grande whitewasher di tutti i tempi, Pat Boone. Nonostante il pezzo possa produrre disturbi gastrointestinali o con atti di vomito, venderà incredibilmente di più della versione di Little Richard. La cosa era rimasta sul gozzo al cantante, ma prima c'era da risolvere la questione dei concerti. L'inaspettato successo di Tutti Frutti aveva notevolmente aumentato gli impegni di Little Richard. C'era da promozionare il disco, registrare nuovo materiale per dare un seguito a quell'ite epocale e rispettare gli impegni presi per le esibizioni dal vivo. Non volendo farsi una cattiva reputazione cancellando concerti, Richard decide che per i locali di seconda e terza categoria ci avrebbe mandato un sosia che sapesse cantare. L'aveva trovato al nightclub Bill's Rendezvous, a Toccoa, in Georgia, dove si doveva esibire con un ex gruppo di musica gospel, The Famous Flame. Il suo nome era James Brown e nonostante in molti si siano accorti dello scambio di persona, lo show era talmente buono che tutti accettavano di buon grado la truffa. Per vendicare lo sgarro di Boone con Tutti Frutti, aveva deciso assieme al produttore Bumps Blackwell di registrare una canzone così veloce nella musica e nel testo che a quel copione bianco gli si sarebbe ingarbugliata la lingua. Il brano inizialmente era intitolato The Thing, ma d'accordo con Blackwell viene cambiato in Long Tall Sally, un altro capolavoro di quel genio istrionico di Little Richard. Il suo sforzo di cantare a mille all'ora funziona solo a metà. Gonna go tell Mary about Uncle John. He says he had the blues, but he has a lot of fun. Oh baby, yes baby, ooh baby, I'm having me some fun tonight. Esce immancabilmente una lassativa versione di Boone che venderà ovviamente benissimo, ma questa volta l'originale di Richard si classificherà più in alto, al sesto posto nella classifica pop e ovviamente al numero uno in quella rhythm and blues. Tiè. Well, I saw Uncle John with a long tall Sally. He saw Mary coming and he dug back in the alley. Oh, baby. La canzone era stata registrata a New Orleans, all'angolo fra Rampart e Dumaine, al leggendario studio J&M di Cosimo Matassa, il luogo dove è nato un sound inimitabile. La band è da All-Star Game, Edgar Blanchard alla chitarra, Frank Field al basso, Earl Parmen alla batteria e ai saxofoni Alvin Red Taylor e Lee Allen, che fa il consueto assolo spellamani. Nei crediti della canzone, oltre a Richard e Blackwell, c'è anche Enotris Johnson. Il coinvolgimento di questo personaggio, che appare anche nei crediti di Jenny Jenny, è un gesto di riconoscimento e generosità da parte di Little Richard. Yes, baby. Quando a 13 anni è cacciato di casa a causa della sua omosessualità, viene adottato da Anne e Enotris Johnson, una coppia bianca devota agli avventisti del settimo giorno, che oltre a Richard hanno cresciuto una dozzina di ragazzi bianchi e neri. Bell'esempio di vera carità cristiana. Preparatevi alla deflagrazione, perché questa è l'esplosiva Long Tall Sally. Gonna tell Aunt Mary about Uncle John. He claims he has a misery, but he's having a lot of fun. Oh baby, yes baby, woo baby, having me some fun tonight. Yeah, well, Long Tall Sally, she's a bit of a species guy. Everything that Uncle John needs, oh baby. Baby, having me some fun tonight. Yeah. duck back in the alley, oh baby. Yes, baby. Ooh, baby. Having me some fun tonight. Yeah, we're gonna have some fun tonight. We're gonna have some fun tonight. Ooh, have some fun tonight. Everything's alright. Have some fun. Have me some fun tonight. With the big box, tell me where your next stop. I've got the blues for you. If you don't mind, baby, please be kind. I love the way you do. La flip side di Long Tan Sally è un altro grandissimo temazzo dell'architetto del rock and roll. Sitting in the bar, I'm looking across the table, drinking old bottle of wine. È la prima canzone di Little Richard, ascoltata da John Lennon, che la ripropone nel suo album tributo ai padri fondatori, intitolato semplicemente Rock and Roll. Il titolo era già stato usato in un jam blues del 51 di Calvin Bowes and These All Star, nel più puro stile Louis Jordan, ma la canzone prende forma nel 55, quando Al Collins e la sua orchestra registrano questa I Got the Blues for You. Slipping in a slide and peeping in a hide, and I'm so glad I got wise. Ripping in a run and drinking in a Pochi mesi dopo, uno dei tesori nascosti della scena rhythm and blues e funk di New Orleans è Debo. Cambia le parole e aumenta la velocità in questa I'm Wise. You've been running around with that man crossed down, baby, that hurt me so. Leader Richard scaglia una molotov sul brano di Debo e ne viene fuori un'incendiaria. Slipping and sliding!